per davvero, ah, un chilo nel baule, ah, per davvero, cuscino senza piume, ah, per davvero, in giro tutto il giorno su, per davvero, sotto i palazzoni, per davvero, ha mollato scuola su, per davvero, che ne fumo 5 all'ora su, per davvero, mia mamma non lavora, no, per davvero, e farò una rapina, per davvero, i fra fanno le bustine, per davvero, e poi le vendono in cortile, per davvero, fanculo alla madama, ah, per davvero, scippiamo una puttana, sì, per davvero, io lo faccio per davvero, ah, per davvero, io lo faccio per davvero, per davvero, io lo faccio per davvero.